secondo Luca. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Allora cominciò a dire loro: Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Lo scopo di Gesù, quando è venuto su questa terra, è stato proprio quello di far cambiare qualcosa, di portare un cambiamento nel mondo. E qual è questo cambiamento? Portare la salvezza. Ma che salvezza? Che parola vuol dire? Che vuol dire questa parola salvezza? La salvezza vuol dire proprio la liberazione. Ma liberazione da che cosa? Liberazione da tutto ciò che ci rende schiavi. E qual è la schiavitù più grande dell'uomo? Sicuramente la schiavitù più grande è il peccato. La schiavitù più grande è tutto ciò che ci condiziona, tutto ciò che ci toglie la vera libertà, tutto ciò che ci fa, compiere ciò che non vorremmo compiere. Tutto ciò che ci fa fare quello che in realtà non avremmo mai voluto fare. E tutti noi abbiamo questo tipo di schiavitù dentro di noi, basta che ci guardiamo dentro e vediamo quante volte facciamo cose che non avremmo voluto fare, diciamo parole che non avremmo voluto dire, e ci mettiamo in situazioni che non avremmo voluto mai affrontare. Eppure ci cadiamo, eppure diciamo che una cosa non la vorremmo fare e invece la facciamo. Un po' quello che diceva San Paolo: il male che non voglio, proprio quello io compio, e il bene che voglio, proprio quello non compio. E chi mi libererà, dice San Paolo, da questa situazione? La croce di Cristo. Ecco, Cristo è venuto proprio a portarci questa liberazione. E come, in che modo ci possiamo liberare? E ci possiamo far liberare da Gesù. Tutti noi abbiamo bisogno di farci liberare da Gesù, anche noi che vogliamo a nostra volta fare come Gesù, anche noi che vogliamo proclamare la liberazione agli oppressi e anche a tutti coloro che vivono nel buio la luce, annunciare la luce, annunciare il lieto annuncio. Quindi, come facciamo però noi, prima ancora di poterlo annunciare agli altri, come facciamo noi a sperimentare questa liberazione? Ecco, una cosa è certa: uno è libero non solo quando sceglie un'azione, ma quando sceglie anche le conseguenze di quell'azione, o meglio, quando sceglie un'azione le cui conseguenze vuole. Non solo vuole l'azione, ma vuole anche le conseguenze di quell'azione. Allora una persona è veramente libera. Se una persona sceglie un'azione, ma non gli piacciono le conseguenze dove porta quell'azione, quella persona non è libera. Quella persona vive nel peccato. E perché il peccato è schiavitù? Perché il peccato è peccato? Il peccato è peccato perché non mi fa felice. Allora il Signore mi dice: questo è peccato, non per dirmi non lo fare perché sennò sei cattivo, ma per dirmi: se lo fai non sarai felice, tu stai cercando la felicità, ma non è lì la felicità. Fidiamoci di più degli insegnamenti di Gesù e della Chiesa. Fidiamoci di più quando qualcosa Gesù ci dice che è peccato. Vuole dirci solamente questo: scegli la via del bene, allora sarai felice, allora proverai questa gioia, allora sarai veramente libero, cioè respirerai questa libertà profonda. Quindi Quindi oggi cerchiamo di, nel nostro comportamento, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di relazionarci agli altri, nel nostro modo di fare le scelte piccole, medie e grandi che ci troviamo a fare, cerchiamo di farle proprio avendo in mente che cos'è la libertà. Che la libertà non vuol dire fare ciò che mi piace, fare ciò che mi aggrada, ma fare ciò che mi giova. Ciò che mi renderà veramente felice, ciò che promuove veramente la mia persona, anche se nell'immediato potrebbe pure portarmi alcuni fastidi, alcune conseguenze, diciamo di alcune cose che ovviamente non cercherei. Tuttavia, io sono veramente libero quando appunto promuovo la mia persona, promuovo il mio vero bene. E facendo così divento anche causa di liberazione per gli altri. Perché? Perché anch'io annuncio la liberazione agli oppressi e la liberazione a coloro che vivono nelle tenebre e anche io dono una certa luce, e come? Attraverso proprio il mio comportamento. Il mio comportamento improntato a questo amore per Dio, improntato a seguire Gesù Cristo mi renderà veramente trascinatore e quindi persona capace di fare quello che ha fatto Gesù, annunciare il lieto messaggio. E per concludere vorrei citarvi questo aforisma che dice così: la libertà è come l'aria, si vive nell'aria, se l'aria è viziata si soffre, se l'aria è insufficiente si soffoca. Se l'aria manca, si muore. Buona giornata.